L'altro giorno seguivo in televisione, non ricordo esattamente su quale rete, la sintesi di un'udienza del processo Cusani, come suppongo facciate in gran parte anche voi un paio di volte alla settimana, e improvvisamente ho avuto una specie di illuminazione negativa. Mi sono accorto che non ci capivo niente. Fino a un momento prima seguivo il dibattito tutto contento, con vivace passione, plaudivo la concreta risolutezza del PM, irridevo le patenti contraddizioni del tipo sotto interrogatorio, apprezzavo le sortite dell'avvocato difensore e poi mi sono accorto che non capivo niente. Non sapevo niente di quel processo, avevo un'idea un po' vaga, una mezza idea dell'argomento del contendere, del quadro generale in cui quel contendere si scriveva, ma sui particolari le mie informazioni erano straordinariamente vaghe. Ci ho riflettuto, ci ho meditato, mi sono sforzato un pochino, ma sono restate vaghissime. Eppure non era la prima volta che seguivo il sociodramma giuridico nazionale, e ricordo su vari canali e in varie trasmissioni una quantità di udienze e di protagonisti. Ho ben presente la faccia da schiaffi di Craxi, le reticenze di Forlani, Civino Pomicino, che in fondo mi sembra se la sia cavata piuttosto bene, Sama che fa una pausa studiata e dice non posso escluderlo, tutta una lunga sfilata di burocrati della corruzione, tra cui chissà perché mi era stata particolarmente impressa quella funzionaria di banca che, poveretta, faceva gli straordinari per riciclare 27 miliardi di BTP nella materialità, come diceva lei, dei contanti, e in cambio avuto non ricorda bene se un foulard di Hermès o un braccialetto d'oro o tutti e due, e al pubblico ministero che diceva che avrebbe dovuto ben ricordarselo, perché una cosa è un foulard e una cosa è un braccialetto d'oro, risponderà: beh, sa, oggi anche un foulard d'Hermès costa una bella cifra. Anch'io, come tutti, mi sono appassionato, incazzato, sconvolto di fronte a tutto questo balletto, ma per essere proprio sinceri, vi assicuro che mi sono accorto che di quel processo so pochissimo. Mi spiego, non so voi, ma ho l'impressione che non tutti ne sappiano molto. Tutti lo consideriamo una specie di processo generale al ceto politico e o industriale corrotto e o corruttore. Ma il punto forse è questo: chi è veramente sotto processo, il ceto politico o quello industriale? Ed è sotto processo per corruzione attiva o passiva? Processare insieme tutti e due per tutte e due le cose non è tanto facile. E poi questo è il processo Cusani, non è il processo alla Prima Repubblica o agli anni Ottanta. E cosa esattamente si addebita all'imputato Cusani, che piaccia o non piaccia è un cittadino che comunque ha i suoi diritti costituzionali? Ma io francamente non l'ho capito. E se scavo sotto la logica delle singole udienze, sotto quella delle singole scene della singola udienza che capita di intravedere alla Rai 3 o sul canale 5 o dove altro, mi accorgo di saperne sempre meno. Dove cacchio vuole andare a parlare l'illustre pubblico ministero Di Pietro? Vuole andare a parlare a far condannare Cusani, suppongo, ma da come tratta i vari intervenuti, taluni lodandone, altri vezzeggiandone e altri prendendoli a calci nel basso ventre, e bisogna fare una certa fatica per ricordare che quelli sono testimoni e non imputati, è evidente che persegue qualche fine più generale, che a me, spettatore televisivo del processo, francamente sfugge. E pazienza se non capisco un pubblico ministero, perché in fondo si tratta di una figura socio-professionale ideologica abbastanza estranea alle mie simpatie storiche. Ma l'avvocato difensore, l'avvocato Spazzali, che cosa fa? A che cosa mira? Vuole far assolvere il suo difeso, certo, ma vuole far assolvere in un contesto che io giuro non riesco a capire. Io Giuliano Spazzali lo conosco da una vita, ho seguito la sua carriera, ho letto e recensito i suoi libri, suo fratello è un mio carissimo amico, anche se purtroppo non lo vedo da un mucchio di anni. Eppure la sua strategia per me resta come un libro chiuso. A volte mi sembra di intravederla, ma poi dico a me stesso che no, non è possibile, devo sbagliarmi. E anche se 4 o 5 reti televisive sono impegnatissime a trasmettere udienza dopo udienza il tutto, nessuno fa il minimo sforzo per spiegare a me o ad altri tutti questi problemi, per chiarire in retroscena, per suggerire che cosa mira il pubblico ministero, per ipotizzare che cosa vuole l'avvocato, semplicemente per indicare quale funzionano i vari soggetti che intervengono volta per volta. Io sarò più scemotto della media, ma confesso che avrei bisogno di una voce fuori campo che mi dice: ecco, adesso gli chiede questo perché vuole scoprire se, oppure questo signore è qui in aula perché si suppone che sappia questo, o qualcosa del genere. In fondo si fa qualcosa di simile persino quando trasmettono le partite di calcio, no? Che hanno un contenuto, un contesto l'atto narrativo più semplice di quello di un processo penale. Ma appunto, nessuno ha proprio la minima intenzione di spiegarmi il contesto, e siamo tutti condannati a seguire le udienze come se fossero scene di un film che vediamo a vicenda inoltrata, non dall'inizio, perché siamo entrati in sala tardi. Capiamo le singole scene, non le singole scene, identifichiamo i singoli ruoli, possiamo dire con ragionevole approssimazione chi è il buono e chi è il cattivo, sempre con l'eccezione dell'avvocato Spazzavi, che a queste banalità classificatorie per ora si sottrae, ma non conosciamo la trama. Non siamo in grado di inquadrare il tutto in un contesto generale qualsiasi. Mi si può rispondere che è colpa mia perché avrei dovuto seguire più attentamente la vicenda Gardini-Montedison, senz'altro, ma se non l'ho seguita o se ho dimenticato le fasi iniziali per la avanzante debolezza senile, devo proprio essere condannato a non capire una mazza. I mezzi di informazione non hanno il dovere di informare, per porca loca, perché poi l'informazione su qualsiasi piano significa trasmissione di dati organizzati secondo un codice. A chi ignora il codice è assolutamente inutile fornire i dati. È proprio come inutile inviare una trasmissione televisiva a colui a chi dispone di un apparecchio in bianco e nero o tenere un discorso in una lingua che l'ascoltatore non conosce. Il codice dei fatti sociopolitici è rappresentato dal loro contesto, da quel quadro generale che esprime o contiene almeno gli elementi principali del sistema valori in cui si riconoscono i fruitori dell'informazione. Tutti agiamo, in parole povere, tutti agiamo in base a certi presupposti e finalità. Chi vuole informare qualcun altro dell'agire suo o altrui deve comunicare quanto può su quei presupposti e su quelle finalità, se no l'informazione non funziona. E per questo che la trasmissione in diretta di qualsiasi cosa non garantisce né la completezza dell'informazione né l'imparzialità di chi la fornisce. Di una trasmissione in diretta di una partita di calcio possono giovarsi soltanto quanti sanno che i giocatori agiscono con lo scopo di imbucare la palla in quella rete là in fondo, e magari che sanno che la partita è una partita amichevole o di campionato o di finale della Coppa del Mondo, perché le reazioni sono diverse, no? Gli spettatori di un processo penale devono essere ragionevolmente informati su precedenti e procedure. Devono sapere che il pubblico ministero intende dimostrare che l'imputato ha fatto questo o quest'altro, e non soltanto che il pubblico ministero sta mazzolando i cattivi. Se non te lo dicono, la trasmissione non serve a niente, anche se può essere divertente. E per questo, concludendo, cambiando improvvisamente argomento, vi confesso che mi sembra stranissima l'idea di sperperare 10 miliardi per assicurare la trasmissione televisiva diretta delle sedute della Camera del Senato. Se si vuole informare i cittadini dei lavori del Parlamento, bisogna organizzare un accurato lavoro giornalistico, che è tutt'altra cosa. Se il problema è quello di ricompensare Pannella per servizi resi, beh, basta dirlo. Almeno sapremo con precisione qual è il prezzo esatto in contanti di un leader politico indipendente.